grido sedeva sulla spiaggia. Un uomo in cravatta lo raccolse, ma nella sua mano si dissolse per scappare su di un'altra spiaggia. Mentre rifletteva su se stesso, s'asciugava lacrime di noia a un passo da una triste soglia. Riso ed orgoglio d'essere diverso. Non riusciva a piangere con nessuno, perché pur fra tanta gente un grido è solo, perché in mezzo alla corrente devi a un volo. Per questo chiudeva il suo cammino al senso fatale del destino. La parola è solo suono e fumo. La parola è solo suono e fumo. La parola è solo suono e fumo. Distinto evitava ogni confronto, pur con il bisogno d'esternare. Gli sembrava spesso d'annegare nel mare di parole di conforto, ed in questa fiera confusione respinse la ragazza occhi verdi. Quando la rincorse fu già tardi, così cadde nell'indecisione. Sazio ancora poco d'emozioni, schiuse le sue labbra un'altra bocca, ma s'accorse in fretta che era sporca, sporca d'altre grida di paura. Quindi si costrinse a una cesura, censura di tutte le emozioni, cesura di tutte le emozioni, censura di tutte le emozioni. Di notte c'è freddo sulla spiaggia, e forse fa meno freddo in mare. Convinto decise d'affogare, di sicuro la scelta più saggia. Sfocando una luna troppo gialla, cominciò a sentire l'acqua in bocca. Ma un urlo come quello il fondo tocca, tanto da spingersi ancora a galla. Ed era di nuovo in superficie, aveva le sembianze di un lamento, ma sorrideva contro questo vento. Un musico, un poeta o un artista avrebbe pianto sotto questa vista. È difficile essere felice, è difficile essere felice. È difficile essere felice.